Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: fa il conto dei figli di Cheat tra i figli di Levi, secondo le loro figli di Levi, secondo le loro famiglie, le loro case paterne. 20 anni in su fino a 50, chiunque può essere schierato nell'esercito per fare il lavoro nella tenda del convegno. Questo è il servizio dei figli di Cheat nella tenda della riunione, le cose santissime. Quando si toglierà il campo, verranno Aronne e i suoi figli. Smonteranno il velo di protezione e copriranno con esso l'arca della testimonianza. Vi porranno sopra una coperta di pelle conciata, stenderanno sopra un drappo completamente purpureo e porranno le stanghe. Sulla tavola della presentazione stenderanno un drappo purpureo e vi porranno i piatti, i cucchiai, le tazze, le coppe per bere, ci sarà anche il pane perenne. Stenderanno sopra quelli un drappo purpureo e lo avvolgeranno con una coperta di pelle conciata e vi porranno le stanghe. Prenderanno un drappo purpureo e copriranno il candelabro della luce, le sue lampade, le sue molle, i suoi smoccolatoi e tutti i vasi a olio destinati al suo servizio. Porranno quello e tutti i suoi oggetti su una coperta di pelle conciata e li porranno sulla portantina. Sull'altare d'oro stenderanno un drappo purpureo e lo copriranno con una coperta di pelle conciata e vi porranno le sue stanghe. Prenderanno tutti gli oggetti del servizio che avevano usato nel santuario, li porranno su un drappo purpureo, li copriranno con una coperta di pelle conciata e li porranno sulla portantina. Purgheranno poi l'altare dalla cenere e vi stenderanno un drappo scarlatto. Vi porranno tutti gli oggetti che servono al suo servizio, i braceri, le forcelle, le palette, i catini, tutti gli oggetti dell'altare. Vi stenderanno una coperta di pelle conciata e vi porranno le loro stanghe. Dopo che Aronne e i suoi figli avranno terminato di coprire il santuario e tutti gli oggetti del santuario, nel togliere il campo verranno i figli di Cheat per portare e non toccheranno le cose sante per non morire. Questo è l'incarico dei figli di Cheat nella tenda della riunione. Compito di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, è l'olio per l'illuminazione, l'incenso aromatico, l'oblazione perpetua e l'olio dell'unzione, la cura di tutta la dimora e di tutto quello che c'è del santuario e dei suoi arredi. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: non tagliate via la tribù delle famiglie di Cheat dal mezzo dei Leviti, ma fate loro così perché vivano e non muoiano. Quando si accosteranno al santo dei santi, entreranno Aronne e i suoi figli e assegneranno ad ognuno il proprio lavoro e incarico, e non arriveranno a vedere neppure per un istante le cose sante, perché morirebbero. Il Signore disse a Mosè: fa il conto anche dei figli di Gerson, secondo le loro case paterne, le loro famiglie. Da 30 anni in su fino a 50 li recensirai, chiunque può essere schierato nell'esercito, per compiere l'opera nella tenda del convegno. Questo è il compito delle famiglie di Gerson circa l'opera e il trasporto. Porteranno i tendoni della dimora e la tenda del convegno, la copertura, la coperta di concia che sta sopra e il drappo all'ingresso della tenda del convegno, i tendoni del cortile e il drappo all'ingresso del cortile, i tendaggi attorno alla dimora e all'altare, le loro corde, tutti gli oggetti necessari al loro impianto. Tutto quello che dovranno fare lo compiranno. Ogni lavoro dei figli di Gerson, tutto quello che devono trasportare e fare, sarà secondo gli ordini di Aronne e dei suoi figli. La loro cura sarà nel custodire tutto quello che devono portare. Questo è il lavoro delle famiglie dei figli di Gerson nella tenda del convegno. La loro sorveglianza sarà affidata a Itamar, figlio del sacerdote Aronne. Recensirai i figli di Merari secondo le loro famiglie, le loro case paterne, da 30 anni in su fino a 50. Chiunque può essere schierato nell'esercito per compiere l'opera nella tenda del convegno. Questa è la cura del loro trasporto per tutto il loro lavoro nella tenda del convegno: le assi della dimora, le sue stanghe, le sue colonne e i suoi basamenti, le colonne che circondano il cortile, i loro basamenti, i pioli, le corde e tutti i loro arredi per il servizio. Per nome elencherete gli oggetti del servizio del loro trasporto. Questo è il lavoro delle famiglie dei figli di Merari per tutti i loro lavori nella tenda del convegno, agli ordini di Itamar, figlio del sacerdote Aronne. Mosè, Aronne e i capi della comunità passarono in rassegna i figli di Cheat, secondo le loro famiglie e le loro case paterne, da 30 anni in su fino a 50, chiunque poteva essere schierato nell'esercito, per il lavoro nella tenda del convegno. I loro recensiti, secondo le loro famiglie, furono 2.750. Questi sono i recensiti delle famiglie di Cheat, di ognuno che lavora nella tenda del convegno, recensito da Mosè e Aronne sulla parola del Signore, da parte di Mosè. I recensiti dei figli di Gerson, per famiglie e case paterne, da 30 anni in su fino a 50, chiunque poteva essere schierato nell'esercito, per il lavoro nella tenda del convegno, i loro recensiti per famiglie e case paterne furono 2.630. Questi sono i recensiti delle famiglie dei figli di Gerson, tutti quelli che lavorano nella tenda del convegno, recensiti da Mosè e da Aronne sulla parola del Signore. I recensiti delle famiglie dei figli di Merari, per famiglie e case paterne, da 30 anni in su fino a 50, chiunque poteva essere schierato nell'esercito, per il lavoro nella tenda del convegno, i loro recensiti per famiglie furono 3.200. Questi sono i recensiti delle famiglie dei figli di Merari, recensiti da Mosè e da Aronne sulla parola del Signore, da parte di Mosè. Tutti i leviti che Mosè, Aronne e i capi di Israele recensirono, per famiglie e case paterne, da 30 anni in su fino a 50, chiunque poteva essere schierato per il lavoro nella tenda del convegno, i recensiti furono 8.580. Sulla parola del Signore, il loro censimento fu fatto per mezzo di Mosè, ognuno per il suo lavoro e per il suo trasporto. Il loro censimento è quello che il Signore aveva ordinato a Mosè.